Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Come abbiamo spiegato spesso qui a Smart City, la strada per riqualificare il parco edilizio italiano e renderlo più efficiente dal punto di vista energetico passa dal coinvolgimento delle ESCO, le Energy Service Company. In una situazione tipica, queste aziende intervengono a proprie spese, migliorando sia gli impianti che l'involucro di un edificio, abbattendo così le spese di riscaldamento e condizionamento. Ed è proprio grazie al risparmio generato che queste ESCO intascano in tutto o in parte per un certo numero di anni che l'investimento si può ripagare. A questo punto ci aspetteremmo la massima sofisticazione nella stima dei consumi futuri di un edificio e quindi appunto del risparmio energetico che si può ottenere. Invece la tendenza è a non prendere in considerazione, se non in modo molto approssimativo, uno dei parametri più importanti, il tempo meteorologico. Di questa vicenda parleremo in due puntate con Cristina Lavecchia, che è direttore di Climate Consulting, che è uno spin-off dell'Osservatorio Meteorologico di Milano Duomo. Buonasera Lavecchia. Buonasera. Allora, voi vi occupate, così giochiamo a carte scoperte, appunto di rilevamento di dati meteo, avete una vostra rete. Allora, proviamo a mettere giù intanto qualche paletto. Per cominciare, c'è un parametro che indica la rigidezza del clima invernale, che è fondamentale per fare delle stime corrette, i cosiddetti gradi giorno. Ci spieghi intanto che cosa sono? Allora, i gradi giorno sono un parametro che serve per stimare l'energia che si utilizza per riscaldare un edificio nella stagione invernale. Ed è la somma della differenza di due temperature, 20 gradi, la temperatura interna dell'ambiente da riscaldare, e la temperatura media esterna giornaliera. Giorno per giorno facciamo la differenza, quando è positiva sommiamo. Insomma, è la somma dei discostamenti della temperatura reale rispetto alla temperatura ideale che vorremmo noi avere d'inverno, cioè circa 20 gradi. Proporzionali all'energia che dobbiamo fornire all'edificio per riscaldarci. Quindi più sono i gradi giorno in una stagione, più dobbiamo fornire energia all'edificio. All'edificio per riscaldarsi durante l'inverno. Come fa un esempio di due città o di due situazioni in cui appunto riusciamo a dare un peso a questi gradi giorno? Prendiamo Milano e Roma. Tipicamente in una stagione invernale Roma ha mediamente un numero di gradi giorno che ammontano a 1400 e Milano a 2400, quindi circa 1000 in più. Cosa significa? Che per riscaldare un medesimo edificio a Milano rispetto a Roma abbiamo bisogno del 22% in più di energia. Quindi diciamo una bolletta che da una parte costa 1000 e dall'altra costerebbe 1220. A parità di edificio. Ecco, perfetto. Tra l'altro abbiamo parlato di questi gradi giorno invernali, ma sicuramente insomma ci sono anche dei gradi giorno estivi, cioè legati al condizionamento estivo che sta diventando sempre più importante. Sì, l'esigenza c'è nel mercato, ma non c'è una definizione, una presa in considerazione da parte della normativa. Cioè, in Italia non vengono definiti i gradi giorno estivi? No. Ah, bene. Che sarebbero calcolati invece come, insomma, perché all'estero si usa questa misura? Sì, soprattutto nei paesi anglosassoni. Sì, è un meccanismo inverso rispetto a quello dei gradi giorno invernali, quindi misuriamo lo scostamento verso l'alto da una temperatura che nel caso estivo è 25-26 gradi. Dicevamo che i dati, questi neanche ci sono, quindi quelli estivi, quelli invernali comunque sono, mi pare capire, abbastanza grezzi. Ci sono delle tabelle, così? C'è la normativa di settore, a partire dal DPR 412/93, definisce per ciascun comune dei gradi giorno che sono una media climatica di circa 30 anni. Ecco, che cos'ha che non va questa media? Perché non va bene? Allora, innanzitutto, essendo una media climatica, non tiene conto della variazione stagionale. Possiamo avere inverni più caldi e inverni più freddi. E il secondo è che, come dire, ci sono vari fenomeni. È un dato per un'intera città. Quindi, ad esempio, considerando sempre Milano e Roma, non tiene presente delle differenze dovute al tessuto urbano, che si è ampiamente aumentato. Cioè, questo dato intanto è vecchio. Nel frattempo la città non solo, come dire, non solo sono passati gli anni, non solo è cambiato il clima, c'è il riscaldamento globale, la città si è anche allargata e mica poco negli ultimi 30 anni. Ecco, voi avete addirittura fatto delle misure proprio per Milano e Roma. Che cosa avete trovato? Allora, per Milano, che secondo tabelle ha un ammontare di gradi giorno pari a 2404, abbiamo degli scostamenti che arrivano anche al 30%. Per Roma, negli ultimi 10 anni abbiamo delle temperature più calde rispetto a quanto previsto dal dato tabellare, con differenze che anche qui arrivano al 20%. Va bene, grazie la vecchia, ci fermiamo qui, riprendiamo lunedì. Buona serata a tutti.